Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. È vero, ho avuto una storia con due mie allieve e per questo pagherò, ma sono state loro a sedurmi, a provocarmi, a parlare. Walter Giordano, 57 anni, da tre lustri stimato professore di italiano e storia qui al liceo socio-pedagogico Soleri di Saluzzo. Parole queste pronunciate a Ferragosto, i carabinieri lo avevano già informato delle indagini e delle prove a suo carico. A questo punto Giordano, sconvolto, si confida con la sua compagna, una signora che frequenta stabilmente già da 2 anni. Secondo la procura di Saluzzo, Giordano avrebbe avuto una relazione di natura sessuale con 2 sue alunne, oggi maggiorenni, ma entrambe 17enni all'epoca dei fatti. Le accuse sono pesantissime: violenza sessuale con abuso di autorità e detenzione di materiale pedopornografico. Ora rischia fino a 12 anni di carcere. Ma la comunità saluzzese è divisa. Molti difendono il professore, in primis i suoi alunni. Certo che il particolare pruriginoso su cui sottolineano tutti i giornali l'attenzione rispetto al caso Tristanzuolo, il professor Walter Giordano, docente di Saluzzo, che leggeva Dante dando le spalle alle sue allieve perché non si accorgessero che piangesse, o simulava che in realtà lui volgesse le spalle alle allieve perché voleva far credere che lui piangesse semplicemente leggendo Dante. Così queste si intenerivano e poi andavano a casa sua, dove pare che gli desse sotto di attrezzi strani. Ma non è quello che voglio questa mattina sottolineare, non mi interessa quelle che sono le attività, le predilezioni, le tecniche, poi visto che il tribunale del riesame deve ancora pronunciarsi. Non voglio entrare in merito tanto al fatto di Saluzzo, voglio soffermarmi sul fatto di quanto siate stati mai coinvolti da un rapporto di così profonda fascinazione e stima con il vostro insegnante dal punto di essere tentati o tentate di cedere all'intima d'azione. 800240024, questa mattina sono in diretta, devo fare una precisazione: per quanti mi sanno in felice transumanza con mio figlio e altri 10 ragazzi autistici per l'Umbria, oggi ho voluto fare un'uscita dal percorso. Corso, visto che la tappa più vicina è Amelia, è 1 ora e mezzo di strada, ho voluto dare la diretta perché mi sembrava brutto soffermarmi troppo tempo con vecchie redizioni. 800240024, andiamo avanti con la storia del professore di Saluzzo da cui partiamo questa mattina. Era il professore che tutti dovrebbero avere, ci metteva passione in tutto quello che faceva e io ho avuto... L'ho avuto soltanto in 2 sostituzioni e in tutte e 2 le volte speravamo che l'ora non finisse mai per poter continuare ad ascoltare quello che aveva da dirci. È un professore molto amato, lo difendono gli studenti, lo difendono i colleghi perché evidentemente... Poi magari il professore poteva fare il ruolo di professore e basta, certo poteva mettersi da parte e evitare queste cose. Poi magari certe persone lo difendono perché appunto spiegava bene, era di animo buono. È indubbio che fosse un bravo professore, è indubbio che sapesse il suo mestiere, è indubbio che aveva un potere fascinatorio e seduttivo sulla sua classe, tanto da riuscire a trascinare in una didattica che oggi è molto difficile mantenere a un livello accettabile di attenzione tutta la sua classe. È indubbio al punto tale che oggi lo stanno difendendo, lo difendono i compagni di classe, le compagne di classe, sono tutti d'accordo sul fatto che quella che sia una caduta penalmente molto rilevante sul piano personale non infici quello che in realtà è una figura di docente specchiata. Beh, voi come la pensate rispetto al problema? Qual è l'esperienza che avete in proposito? Vi è mai capitato di avere un così profondo, radicale trasporto per un professore, tanto da essere disposti o disponibili anche a saltare il fosso? E se la stessa cosa capitasse in realtà a un allievo maschio? Solamente va relegato questo tipo di rapporto nei film con Alvaro Vitali e Luigi Fenech? 800240024. Secondo me la colpa non è tutta sua, anche di queste ragazze comunque, perché lui sì può aver fatto quello che ha fatto, però anche loro sono andati insieme alla fine, quindi ha la colpa fino a un certo punto. Le ragazze se erano consenzienti, alla fine la parte proprio delle sante non ce l'avevano. Anche le ragazze che ho sentito che hanno detto che erano innamorate. Io penso che anche delle ragazze magari che hanno 16-17 anni possano anche già scegliere un po'. in altri paesi a 16 anni si ha la patente, quindi 57 58 anni, cioè, certo, di un paese in cui le donne ancora sono divise fra santri, fra quelle che la danno, è molto difficile avere un giudizio sereno, un giudizio laico. Però oggi noi ci addentreremo in questo problema. Inizio con Beppe Neri, un amico, una persona che spesso ci segue in questo programma con il suo illuminato giudizio. Ricordo, neuropsichiatra, presidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Io, Beppe, ti ho chiesto di analizzare con attenzione tutti i particolari, cercando di portare a un livello universale questo che è uno dei tanti episodi di facezza di paese. Adesso sulla fine di questa lunga coda dell'estate ci lo dimenticheremo e penseremo a qualcos'altro, magari missili in Siria, qualcosa di più missilisticamente rilevabile anche per le nostre vite. Non raccolgo l'allusione missilistica, passo subito all'argomento. Il cuore del problema, secondo me, sta nel fatto che alla fine i giudici hanno coinvolto questo professore non per uno stupro, ma l'hanno indagato per atti sessuali con minorenni con abuso di autorità. Il che significa che in questo paese, comunque, esiste una legge che prevede che il sesso pure consensuale con un minore che abbia compiuto 16 anni è reato soltanto quando, e qui siamo in questo caso, l'adulto riveste un ruolo ascendente nei confronti della ragazza o del ragazzo e ne approfitta, cioè ha un ruolo di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. Quindi, ancora una volta, bisogna studiare la relazione, ma la relazione ha una sua collocazione in un contesto specifico in cui il ruolo preminente era quello del docente. È alla luce di questo che bisogna analizzare poi quello che è accaduto fra il professore e le sue allieve. Ecco, i giornali naturalmente sono soffermati nella carenza di particolari, al di là di corde, legacci, legami e attrezzi vibranti, c'è poco da andarci ad approfondire, ma in realtà ci sono degli episodi caratteriali, comportamentali, addirittura di come si veste. C'era un titolo di un giornale: guardati dalle persone che portano la polo fuori del maglione. Secondo te questi episodi sono rilevanti? Nella medicina moderna abbiamo purtroppo uno sviluppo in cui sembra che tutto ciò che è tecnologico, tutto quello che high tech è indeterminante. Invece è importante fare la storia. Scusa Beppe, un attimo, che la gente pensa ancora che sia registrato 800240024. Sono le 10:16:07. So che voi sapete che sono a cavallo per l'Umbria con i ragazzi autistici, ma in realtà ho preso l'automobile questa mattina, sono venuto a fare la trasmissione in diretta. Quindi potete chiamare, vi rendo conto che l'argomento è un po' difficile da affrontare, ma prendetelo alla larga. Vi ascoltiamo. Beppe, continua. No, bisogna fare la storia, bisogna far raccogliere l'anamnesi. Allora, questo era uno che aveva un suo cliché come un uniforme, andava sempre o con la felpa o col pullover, con sotto una polo il cui colletto d'ordinanza stava fuori. Ora, può sembrare un dettaglio, ma se diventa un cliché ripetitivo e standard, io ho un collega che è un brillantissimo farmacologo che da 30 anni va in televisione solo con i pullover Dolce Vita, beh, questo costituisce un elemento identificativo di uno stile di... No, no, io dico, sono preoccupato che uso una marca di camicia e una marca di pantaloni da almeno 2 anni. Cambiano i colori, ma sono gli stessi. Quando poi uno pesta la buccia di banana, accade che certe cose sembrano normali, comportamenti. Laura, un attimo, Laura, prima telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo semplicemente riportare la mia esperienza personale, perché questo fatto mi ha riportato un po' di anni addietro. Le ha dato un brivido. Sì, perché anche noi ragazze, diciamo, eravamo tutte innamorate del nostro professore italiano, che era proprio così. Era il bel tenebroso, appassionato, che ti sapeva... Ecco, però l'atto... Diciamo che è una modalità molto paraculesca dei professori che fanno i bei tenebrosi, hanno anche un po' inflazionato. Sì, lui ci giocava anche, e tra l'altro l'ha ammesso, perché adesso a distanza di anni l'abbiamo anche ricontattato. Ma voglio dire, però tutto, ecco, l'atto più trasgressivo era una sera, lui ha invitato un gruppo di noi a casa sua... E abbiamo continuato a parlare di letteratura. Noi sbavavamo e lui parlava di letteratura. Ma voi sareste state disposte anche al grande passo? No, assolutamente no, non l'avremmo mai fatto. Infatti questa è la grossa differenza. Io non sono tanto dalla parte delle ragazzine, perché purtroppo... Io non sono dalla parte di nessuno, sinceramente. No, ma infatti non è il caso, no? Però purtroppo ci sono queste ragazzine di 16-17 anni che sessualizzano molto il rapporto, e soprattutto se poi c'è di mezzo un professore... Magari perché era lì qualche problema, no? Cioè l'atto della sfida. Sono cresciuta. Cioè, beh, oddio, l'alternativa veramente... è sessualizzare un tronista, tutto sommato, alla fine, non è che voglio entrare nei particolari. Beh, molto meglio sessualizzare un professore, voglio dire, almeno ci ricordiamo. Sì, però il professore dovrebbe essere in grado perlomeno di non cogliere il frutto di questa fibrillazione. No, assolutamente, assolutamente. Cioè, è lui che è l'educatore, cioè, per carità, io recupero la figura dell'educatore. In questo caso lui ha completamente abdicato il suo ruolo. non è più un educatore, è una persona che invece di trasmettere dei messaggi, dialogare con queste ragazze, far passare anche dei modelli alternativi. Sì, adesso non facciamo analisi, ne abbiamo anche troppi analisti. Mi dica qualche altro particolare se c'è su questa serata galeotta, per modo di dire, in cui si coglieva l'aria pregna di desiderio, ma alla fine è rimasta in un ambito dolce stil novista. Allora, guardi, è rimasto il segreto fra tutte noi ragazze, in realtà. Poi abbiamo scoperto che anche i maschietti della classe poi l'avevano saputo, anche perché c'era un maschietto, l'unico maschietto che ha mantenuto il segreto era perché lui era innamoratissimo anche lui del professore, ma per altri motivi. Sì, come Verdone, la grande spada di fuoco, uomo donna, vabbè, questo è un cliché. Esatto, esatto. E quindi siamo andati in questo abbaino nel centro di Torino, vicino alla stazione, e lui tra l'altro era un amante di Cesare Pavese, quindi si identificava con la figura dell'intellettuale che non riusciva a intervenire sulla realtà, non sapeva farlo. Non è che l'esito sia stato il più felice. No, infatti, e quindi è rimasto tra di noi, ecco, una cosa... Di una persona che aveva dei grossi problemi anche poi per realizzare l'atto. Fermiamoci, abbiamo il corrispondente della stampa da Saluzzo, Andrea Garassino, buongiorno. Buongiorno. Vedi Andrea, non a caso la prima telefonata... è sempre in ambito piemontese qualcosa che avviene, quindi sarà l'aria, sarà l'acqua. Ecco, tu che segui questa cosa da Saluzzo. Saluzzo rappresenta una realtà geografica e antropologica differente dal resto della provincia italiana, o in realtà accade a Saluzzo quello potrebbe accadere ovunque? Ma guarda, la domanda è particolarmente difficile perché non sono un esperto, però credo che sia una realtà provinciale molto simile a tutte le altre che ci sono in Italia, e infatti il fatto è stato molto scalpore, però mi sembra che appunto in giro per l'Italia se ne possano ritrovare anche altri negli archivi dei giornali oppure dai racconti degli il famoso professore di Camerino era una vicenda che poi aveva dei contorni boccacceschi, si filmava con la maglietta della salute, poi anche lì è finita in una bolla di sapone. Poi dimmi, ecco, dalla tua analisi, in realtà, qual è l'atteggiamento generale della cittadinanza? Io credo c'è questo senso di consenso diffuso per cui in fondo rappresentava un'eccellenza di pensiero, gli si perdona anche il fatto che poi sul piano privato potesse avere qualche scivolata. Ma guarda, io non voglio dare giudizi su nessuno, però io credo che comunque la gente spesso non vada troppo a fondo, e i giornali in questo caso hanno anche avuto delle difficoltà a rivelare per motivi deontologici e anche per motivi di opportunità nei confronti delle vittime tutti i particolari di questa vicenda, e quindi la gente sa di tresche sessuali, sa di rapporti, ma non sa effettivamente cosa c'è contenuto nell'ordinanza del GIP, che sono i documenti di cui siamo venuti a conoscenza tutti noi giornalisti, e quindi forse non siamo neanche riusciti a far passare tanto che cosa possono aver vissuto queste ragazze in questo rapporto. Ecco Andrea, adesso tu invece abbiamo questa occasione in questo momento, vediamo se con estrema sintesi riesci invece a far capire il tuo punto di vista proprio avendo guardato le carte. Ma guarda, il mio punto di vista vorrei cercare di tenerlo più nascosto possibile, visto no, oggettivamente, da quello che hai visto, poi come da quello che ho visto, ovviamente è la versione dell'accusa, come ripetono sempre gli avvocati, però da quello che ho visto, da quello che dicono gli psichiatri e gli psicologi che hanno visitato queste ragazze, effettivamente emerge questa soggezione, questa paura, quasi questo timore reverenziale nei confronti del prof, ha scioccato molti questo fatto che una delle ragazze desse del lei per tutto il tempo del rapporto al professore, con cui aveva comunque degli incontri intimi e anche credo affettuosi e amorevoli, quindi questo dà un po' il senso, anche se la gente forse non ha letto troppo questa cosa qua e fa la disamina quella più facile del fatto che comunque ci sono state, quindi io l'unica cosa che mi sento di dire è che se non è un rapporto alla pari dove ci sono 35-40 anni di differenza e dove uno è professore e l'altro alunno, questo è sicuro, poi che sia penale o che non sia penale, questo per fortuna non sta a me stabilirlo, sicuramente dalle carte che abbiamo potuto vedere noi non emergono dei rapporti alla pari, ma emergono dei rapporti un po' sbilanciati. Quindi vediamo, ecco, se riesco a sintetizzare quello che è il tuo pensiero, dice l'opinione generale tende, ma abbiamo sentito le battute delle signore intervistate per strada, dire beh, se le ragazze ci sono state non erano certo delle figlie di Maria e quindi se lo sono andate a cercare, lui era un bravo professore. Beppe Neri, su quello che ha detto il collega Garassino poco fa, su questa sorta di rapporto profondo e vessatorio, il lei che si dà a un professore anche nell'intimità, non soltanto per salvare la faccia nelle pubbliche esternazioni. Beh, questo afferisce a quello che dicevamo prima, cioè al tipo di relazione costruita fra le due persone, ma questo va sempre messo nell'ambito di quella gamma ampia di rapporti che si possono stabilire alle ultime classi del liceo, in cui abbiamo ragazzi e ragazze che sono... Perché è una zona liminare in cui sono già adulti, no, ma ancora per la legge esempio, non lo sono. Sul Corriere della Sera l'altro giorno veniva citato un articolo del Washington Post in cui una giornalista diceva giustamente: c'è una situazione anche negli Stati Uniti in cui fra studenti e insegnanti c'è tutto un continuum che va da semplici allusioni a flirt assolutamente fittizi e immaginari, a uno scambio di proposte, all'attuazione di queste, alle molestie e a comportamenti predatori. Allora, laddove si dimostrasse che qui la fattispecie è un comportamento predatorio, è chiaro che c'è un rapporto assolutamente asimmetrico in cui questa persona... Però bisognerebbe avere, come dice il giornalista di Saluzzo, dei dati. L'ipotesi è che in questa vasta gamma questa fattispecie si possa collocare a un certo punto all'estremità della curva Gaussiana. Nicolò, buongiorno, insegnante. Ciao, buongiorno, sono stato insegnante e ti devo dire che purtroppo molte volte dovevi stare attento per gli ammiccamenti che ti facevano le studentesse. E, ero giovane. Attento a cosa? Non cedere. Certo. Spegni certo, la radio, spegni la radio, se no c'è l'eco. No, ma ce l'ho spenta la radio. C'è il viva voce? Sì, c'è il viva voce. No, il viva voce è vietato la radio, toglielo. No, me lo toglie automaticamente quando mi arriva la telefonata. Sì, sì, forse ci può dire in bomba, abbasso il volume. Ora allora vai al punto. Dicevo, tu pensa che tantissime volte mi è successo che le ragazze della, qualche ragazza, non tutte ovviamente, della prima fila, oltre gli ammiccamenti, allargavano anche le gambe. E a questo punto mi toccava trovare una scusa con gli alunni dei banchi di dietro, di farli venire avanti perché mi accorgevo che non stavano attenti e dicevo alle ragazze, siccome tu sei più preparata, vai al suo posto e li mandavo indietro. Pensa, dopo tanti anni, una sera, ho avuto occasione di andare a cena con degli amici e ho trovato una mia ex alunna, la quale, dopo aver bevuto qualcosa, mi ha confessato che per qualche voto migliore avrebbe accettato volentieri la compagnia, capisci? È molto imbarazzante. A parte fra il dirlo dopo due bicchieri, certo, a distanza di anni, sì, poi trovarsi, ma non è certo il fatto che nella sua non totale capacità di gestione, la sua emotività, una ragazza minorenne possa pensarlo, è dal punto di vista dell'insegnante che dovrebbe magari pensarci un po'. Fabio, buongiorno. Sì. Buongiorno. Secondo me sono state create delle vittime dal sistema mediatico, dal tantan giornalistico, queste due ragazze che alla fine hanno seguito dei loro impulsi sessuali, perché se no hanno 17 anni, non ne hanno 12. Se fosse sua figlia penserebbe alla stessa maniera? Sì, penserei esattamente, perché conosco delle ragazze che hanno 17 anni, perché la differenza cos'è? Se ho 17 anni e 364 giorni non lo posso fare. Sì, ma l'altro ne aveva 60, questa è la differenza, ne aveva 57. Prego? L'altro ne aveva 57. Era il suo professore, aveva su di lei un rapporto di potere, se non altro, poteva decidere i suoi voti, poteva decidere la sua promozione, questo non lo metto in caso. Cioè non voglio, le do altri elementi per riflettere, non c'è nessuna più di me, che è aperta ad ogni libera espressione di ogni essere umano. Mi sono messo da una parte, la prima volta che ho letto la notizia, ho detto, non c'era l'età delle ragazze, e ho pensato, la differenza sarà, se hanno 12 anni sicuramente è un reato molto grave, se hanno 17 anni, per chi conosce i giovani d'oggi, che hanno una velocità... Sì, sì, diciamo che su un processo Ruby si è divisa l'Italia e più o meno siamo nella stessa circostanza anagrafica, un signore anziano che va con una ragazza di 17 anni, che poi facesse lap dance è un altro discorso, ma non fosse una studentessa di Saluzzo, però se esiste una norma. Comunque, se io vado avanti in questa linea sembra che voglia tenere delle posizioni. Non tengo posizioni, dico, a fronte di una notizia su cui stiamo ragionando, si parla sui giornali, provate a proiettarla nella vostra esperienza o nella vostra immaginazione, o come potreste prefigurare voi una situazione simile nell'ambito delle persone che conoscete o che frequentate. Melog, la realtà condivisa. Ho 800 24 0024, siamo partiti dalla vicenda di Saluzzo, del professore dell'istituto magistrale Soleri, che agli arresti domiciliari con l'accusa di aver intrattenuto relazioni sentimentali e sessuali con due sue allieve minorenni al tempo dei fatti. E da questo stiamo allargando, perlomeno proviamo a allargare, chiamano professori e raccontano del difficile rapporto fra le tentazioni che molte volte uno sente sulla propria carne guardando gli sguardi appassionati delle proprie allieve. Parlano, signore, di altre generazioni in cui il massimo una trasgressione era andare in gruppo a casa del professore illuminato e stare lì come a un cenacolo, vivendo di desiderio e di fibrillazione, ma senza mai raggiungere quelle che sono le vette di reale e concreta consumazione, che perlomeno sembrano essere state lambite nel caso di Saluzzo. Abbiamo al telefono, che ci stava raccontando la cronaca da Saluzzo, il collega della Stampa, Andrea Garassino. Garassino, tu hai parlato anche con i genitori delle ragazze per capire, perché visto prima ha chiamato un padre, ha detto a me non importerebbe nulla, mia figlia è libera, anche se poi il professore so che su lei ha un potere. I genitori di Saluzzo in realtà come si sono comportati? I genitori si sono divisi un po' come tutta la città, tra la maggior parte di quelli che appunto non avendo bene contezza di cosa sia successo nelle camere da letto e nelle macchine tra il professore e le alunne, che parlano di questo professore che sicuramente era bravissimo e sicuramente era il professore che tutti avrebbero voluto avere. Però appunto aveva anche questo lato oscuro che è venuto fuori grazie all'inchiesta della magistratura e che quindi bisogna tenerne conto. Io non ho parlato personalmente con i genitori delle due vittime, perché qui ha lavorato un team della Stampa anche, quindi ci sono andati dei miei colleghi. Io l'impressione che ho avuto è che anche loro non avessero pienamente chiarezza di quello che le loro figlie eventualmente facevano con questo professore, forse neanche che si incontrassero le figlie con il professore. Infatti tutto subito sono rimasti stupiti dal clamore, dal fatto che ci fossero cronisti e giornalisti che le cercavano. Poi credo che, visto che sono già passati più di 15 giorni dall'arresto, credo che nel frattempo abbiano capito un po' di più cosa stava succedendo e si siano fatti dei chiarimenti interni alle due famiglie per capire come muoversi da qua in poi e per vedere se questa storia aveva lasciato delle ferite o come probabile lascerà degli strascichi, anche perché, come dicevamo, allo stato, dal punto di vista proprio pratico, lui è stato arrestato e c'è un'ordinanza del GIP che decreta l'arresto, che sono 28 pagine, che l'unica cosa che è uscita e che è uscita per grazie ai giornalisti, però non è un atto pubblico, le famiglie non ce l'hanno e ce l'hanno solo il giudice, l'accusa e le difese. Quindi le famiglie, anche tutte le cose che abbiamo letto noi, forse non le hanno lette. Adesso si sono rivolte a un avvocato di Torino, soprattutto una famiglia, l'altra forse lo farà dalla settimana prossima, e quindi da quel punto lì in poi forse potranno avere più accesso agli atti e potranno anche capire nel dettaglio che cosa ha fatto la magistratura. Poi lunedì si pronuncerà, mi sembra, al Tribunale del Riesame, quindi si vedrà. Lunedì ci sarà il Tribunale del Riesame che deciderà se rimettere in libertà il professore oppure se continuare a lasciarlo ai domiciliari, o un'altra misura cautelare più morbida o più dura che decideranno i giudici. Certo, dico interessante, sarà un bel test vedere se il professore tornerà in libertà, come passeggerà per le strade di Saluzzo, quale sarà l'atteggiamento generale. Ti ringrazio Garassino, buona giornata e buon grazie lavoro. Velocemente grazie. Fabio, anche lui un insegnante. Sì, pronto, salve. Io sono un insegnante, tra l'altro stesse materie, in un istituto ad altissima densità femminile. Al di là di aspetti più legati alla sfera o sentimentale o sessuale, io mi rendo conto che insegnando certe materie in un certo modo si rischia veramente di modificare la psicologia dei ragazzi. Cioè, io mi rendo conto. In parte potrebbe anche essere salutare. Se io ho la responsabilità, perché quasi sembra che le responsabilità dei docenti scompaiano di fronte ai semplici dettami di regolamento. Se io insegno filosofia, letteratura, storia dell'arte, in qualche maniera voglio modificare la sensibilità di un ragazzo, perlomeno stimolarla. Questa è una cosa, un'altra cosa è poi stenderlo, questa è la differenza. Certo, ma modificare e stimolare è una bella differenza. Io cerco sempre di capire dove vado a intervenire, dove vado a superare il limite dopo il quale loro non sono più loro stessi, ma sono come io voglio che loro siano. Io dopo 20 anni che insegno mi rendo conto che se si insegna in un certo modo a persone disponibili naturalmente a mettersi in discussione, il rischio di farli diventare come tu sei ma come non vuoi che tu che siano è molto molto complicato. Ma per decenni, per questo in Italia si è parlato di cattivi maestri, erano professori certo. illuminati che leggevano, che studiavano, approfondivano, consapevoli di essere portatori di un messaggio sì. forte che su questo lavavano poi il cervello ai loro allievi. Però poi bisogna sempre far presente ai ragazzi che quello è il tuo punto di vista, che se poi diventa il loro, però deve diventare il loro in maniera molto trasparente e chiara. Questo è molto chiaro. Silvana De Mari, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ti presento, Silvana, siamo alla prima puntata in diretta della stagione, scrittrice di fantasy, saggista, psicoterapeuta, il suo saggio che ricordo è La realtà dell'orco, edizione Lindau. Perché chiamo Silvana De Mari a parlare di argomenti che sembra con la fantasy abbiano nulla? Perché? Perché nulla a che fare. C'è un profondo portato legato appunto al nostro più nascosto senso di percepire la realtà e i rapporti, che è basato su quella che è la nostra cultura profonda, la trasmissione dei saperi. Questo professore perché le commuoveva? Perché le seduceva? Perché leggeva poesie voltando le spalle loro e piangendo, non so se sinceramente, facendo finta di piangere. Quindi toccava delle leve profonde, dei punti nascosti queste ragazze. Non è che le seduceva portandole in giro con l'automobile o a cena in un bel ristorante o facendo vedere il Rolex d'oro. O sbaglio, Silvana? In parte è vero, in parte, e hai detto giusto, profonde, veramente molto profonde, e vale a dire il cervello ancestrale, quello che abbiamo in comune con le scimmie. In tutte le scimmie antropomorfe, come nella maggioranza dei mammiferi, funziona lo schema dell'AREM. Non tutti hanno accesso alle femmine, solo gli alfa, cioè solo il capobranco. Per cui nella dizione popolare, mi scuso per questo termine volgare, non voglio dire le parolacce, vabbè, ma si usa correttamente il termine sfigato, che vuol dire colui che non ha accesso al corpo femminile. Non ha accesso alla figa, in questo senso, sì. Che sono coloro che non sono gli alfa. Quindi le femmine istintivamente si innamorano, è vero, è autentico, di coloro che hanno maggiore territorio, il denaro e territorio. Come giustamente diceva Schopenhauer, le donne si innamorano veramente degli uomini ricchi. Lui lo diceva sarcasticamente, ma invece è assolutamente vero. Ma non c'è nulla di male. La ricchezza è benessere, la ricchezza è agio. Se io ti porto con il mio elicottero in cima a un'isola fantastica a vedere un tramonto, è meglio che ti porti nel muretto accanto alla ferrovia. È chiaro che stai meglio, c'è meno puzza di binari. Colui che ha conquistato molto denaro, cioè colui che ha conquistato molto territorio, verosimilmente ha i cromosomi migliori, colui che ha il potere è l'alfa, per cui ha i cromosomi migliori e periodicamente scopriamo sesso e potere, ma guarda che novità. Adesso attenzione, la classe, come anche il team sportivo, quindi sto parlando del professore e del coach, sono branchi anomali, qui si tratta di farsi capobranco, perché per diventare un capo politico, un uomo ricco o anche un capo mafia, non importa, sono tutti capobranchi, un maschio ha dovuto battersi ad armi pari con i suoi pari grado, il professore no, è un falso branco, è un falso capobranco, quindi si innamoreranno di lui le ragazzine. Anche perché il suo antagonista è il bidello che suona la campanella, è il padre che ha mille altri pensieri, è il nonno ignorante, è il fidanzatino rozzo che guarda solo le partite di calcio, è gioco facile. È gioco facilissimo, vorrei sottolineare liceo pedagogico, cioè moltissime femmine, quasi solamente femmine, sia tra i professori che tra gli allievi. Quindi giochi molto facile, le ragazzine si innamorano di te, tu ti devi fermare, per Dio. Perché la libertà non è seguire il proprio capriccio, la libertà è assumersi la responsabilità di quello che consegue le proprie azioni. E adesso la sedicenne è un'oca giuliva, mi scuso, tra l'altro molte sedicenne sono mie lettrici, qui non sto facendo molto marketing, ma non importa, non è in grado di intendere di volere, anche se può sembrare molto sveglia. Quando poi avrà 40 anni le seccherà che i suoi figli scopriranno quelle cose, quando avrà 50 anni le seccherà, o 60, le seccherà che i suoi nipoti sappiano quelle cose. È il professore che si deve fermare. La ragazzina giustamente ha un atteggiamento seduttivo, perché ai miei tempi l'unico corpo che entrava nella casa era quello della madre. Adesso entrano innumerevoli corpi, le veline, il calendario, il papà dice ma guarda che bella, quindi la ragazzina finge atteggiamenti sessuali, come il maschietto finge di fare il cowboy e fa pum pum, ma non devi sparargli, sta giocando. La ragazzina certo veste, spoglia le bambole. Ferma un attimo Silvana. Fiorella, buongiorno. Buongiorno, è la Nicoletti. Sì, allora, sono qua. Io ho detto che ho avuto due esperienze. da ragazzina, naturalmente, quando andavo a scuola. Quanti anni? Allora, una poteva avere 12 anni. Ah, era molto piccola, Ma ero, però ero, diciamo, già sviluppata. C'era anche molti anni fa, immagino. E ce l'ho 70 anni. Va bene, allora... Era una scuola rurale, cos'era? No, era una scuola... Allora c'era l'avviamento professionale. Ma erano piccole italiane oppure erano già passate la guerra? Italiane? No, non lo so, che periodo era, più o meno, gli anni, così capiamo allora, il contesto. Dunque, ho 70 anni, a 13 anni faccio il conto, che sono una pessima matematica. Comunque, post-guerra, dai. Sì, certo, vabbè. I colletti, certo, dopo la guerra. E quindi avevo 13 anni, sì. E allora l'avviamento professionale era in questo modo, maschi e femmine. Cioè le classi non erano miste. Al punto, andiamo al punto. Subito, allora c'era un professore di una bellezza, Bob, e io mi sono veramente innamorata, e le dirò, Nicoletti, che ancora adesso se ci penso mi tremano le gambe, giusto? È stata un'esperienza bellissima, non è stata, diciamo, approfondita molto, però ci siamo abbracciati, insomma, ho avuto un'esperienza carina. La seconda invece, ero più grande, già superiore, e lì veramente è stata un po' opportunistica da parte mia, devo ammetterlo. Cioè, mi avrebbe dato dei vantaggi. Sì, ma c'era 12 anni, 13 anni. No, prima, dopo ne avevo 16. Ah, 16. Ah, quindi a 16 è stato dato, si è trovata nel dilemma di darlo non professore, le sarebbe convenuto. No, non gliel'ho dato, perché loro non si dava, però si andava molto avanti. Si faceva vedere, cosa si faceva? Si facevano... lo dico per radio, perché no, vabbè, mica il professore quello più grande. Qual era il limite? Quello di, non c'era la penetrazione. Lo strusciamento esterno. Sì. Quello gliel'avrebbe fatto fare. Vabbè, Fiorella. No, l'ho fatto, no? Ah, l'ha fatto. Sì, allora se parlo di cose vere. Non no, Fiorella, siamo qui. È una trasmissione che bisogna capire anche perché come sono le mutazioni in questo tipo allora, di rapporti. No, allora, quindi negli anni 60-70 si limitava a un petting spinto, molto si diceva. Spinto, ecco. Sì, per la donna no, a conservare la sua integrità ma fisica. No, ma non si faceva proprio. Sì, era un quando tabù, era lì, diciamo la distanza verità. Era poca. Comunque, vabbè, Fiorella. Anche quindi anticoncezionali, vabbè, quindi, va bene, per non rischiare, quindi è molto chiaro. Beppe Neri, una chiosa su questa telefonata che dal contenuto antropologico interessante. No, mi sembra che sia la manifestazione del fatto che non siamo in una condizione in cui si è verificata una mutazione genetica negli anni 2000. Già negli anni 50 c'erano tutte le premesse per questo rapporto fra la allieva e il prof. Diciamo l'evoluzione nel sono tempo d'accordo, è stata una questione di centimetri. Sono d'accordo, sì, ma il discorso, torno, sono d'accordo con la De Mari, fra i due attori quello che deve assumere un ruolo di responsabilità è colui il quale ha 30-40 anni di più e non ha incontrato per caso per strada la ragazza, ma è il suo docente. Anche che poi c'è una continuità di rapporto, la vede tutti i giorni, la vede di fronte agli altri, la mette in una situazione abbastanza complicata. Io sono stato a letto con questo professore, oggi lo vedo lì che lui insegna insieme alle mie compagne di classe. Melog, la realtà condivisa. .800240024 siamo scivolati nel ricordo, ma è un reperto antropologico, pigliatelo come tale. La signora settantenne che ci ha chiamato ha parlato di una sua seppur veniale cedevolezza nei confronti di un professore, ma non è il punto di vista della cosiddetta vittima, che può essere seduttiva quanto vogliamo, può avere istigato quanto vogliamo, se sei professore, se sei docente, se hai un ruolo di predominanza generale su una persona, sai che ti stai approfittando di un tuo potere. Daniele. Sì, buongiorno Nicoletti, buongiorno. Eccoci qua. La mia è una testimonianza, non sono un professore, ho 50 anni e circa, avevo 38 anni, dirigevo una piccola azienda e mi sono trovato tre stagiste, quindi già cominciamo a focalizzare, tre stagiste intorno ai 20, 21, 22 anni. Quindi lei si approfittava anche del fattore disoccupazione, queste volevano anche un lavoro. Esatto, sapevano benissimo che una di queste tre, pur non essendo un lavoro poi così, insomma, ambitissimo, comunque un stipendio modesto, eccetera, eccetera, però avrebbe preso il posto di lavoro, un contratto di 2 anni retribuito, parliamo di stagiste. E teniamo anche conto che io avevo 38 e queste avevano 20. Quindi ne sarebbe passata una su tre, c'era una selezione. Esattamente, sì, esattamente. E che tipo di prova erano sottoposte le stagiste? Ma no, le stagiste vivevano in ufficio e facevano a fianco ai dipendenti e alle altre impiegate, eccetera, eccetera, seguivano un po' l'evoluzione del lavoro. Poi c'era una signora che andava in maternità e una di queste sicuramente l'avremmo presa per... Quindi un cambio maternità su Cosis, perché un anno era un anno di lavoro comunque. Esatto, retribuito e tutto quanto. E quindi cosa è cominciato? Beh, è cominciata che insomma queste ragazze sono presentate, lo stage durava 2 mesi e in questi 2 mesi, e io dirigevo giovane, così diciamo piccolo manager, dirigevo questo ufficetto nelle Marche, e devo dire che insomma mi sono trovato in notevole difficoltà, perché una in particolare di queste, che tra l'altro era anche la più carente dal punto di vista... Andiamo, diciamo, al punto, lei ha resistito, anche se la situazione non era esattamente simmetrica rispetto a quella di un professore. Quindi dico che naturalmente questo professore doveva far valere la sua sapienza. Questo è il suo punto, si è raccontato un episodio che c'entra lateralmente, però è arrivato al suo verdetto. Angelo, pronto? Un'esperienza personale, 14 anni... Salve, allora lui a 14 anni mi è accaduto che, stiamo parlando del, io ho 55 anni, quindi stiamo parlando del 74-75, quegli anni lì, e venne rimandato in una materia, e venne rimandato da questa professoressa in una materia, diciamo sì, effettivamente non ero preparatissimo in quella materia, diciamo che la cosa bella fu che questa insegnante fu disponibile, dato che mi aveva rimandato a darmi qualche lezione che non è ammesso, e io... non è ammesso che l'insegnante che ti boccia ti dia anche ripetizione, comunque l'ha fatto. Diciamo che lei è stata molto disponibile nel fare questo. Sì. Lei abitava, aveva una casa in una zona vicino al mare, e io andai da lei come d'accordo nel tal periodo, perché dovevamo fare qualche lezione, appunto. Io sono andato e la prima volta ho notato che effettivamente, insomma, era molto caldo, quindi diciamo che l'abbigliamento era abbastanza... Cioè, lei sta raccontando la trama di un film di Alvaro Vitali o è realmente... No, assolutamente no, guardi, le giuro. Purtroppo, fortunatamente mi è capitata questa cosa. Insomma, diciamo che praticamente io... Era un tentativo di seduzione, diciamo. No, ma è andato decisamente in porto, la cosa per me è stata molto, molto bella. Un'estate indimenticabile. Diciamo che sono state 4-5 lezioni molto interessanti e non ricordo di non avere dato dei grossi apprendimenti per quanto riguardava geografia, però sono stato promosso a fine. Allora, Silvana De Mari, qual è la differenza? Ecco, nessuno si straccia le vesti, nessuno si indigna, anzi, ci diamo di gomito, diciamo, vedi, beato lui che ha trovato la nave scuola, la Fenech, chiamate quello che volete, parlando naturalmente di un riferimento subletterario dei film, dei B-movies con Alvaro Vitali. Ecco, perché in questo caso è diversa la cosa? Dov'è il maschio alfa? Perché maschi e femmine sono profondamente diversi. I maschi hanno il testosterone, noi abbiamo gli estrogestinici. Il testosterone ti spinge a pensare al sesso 4 volte all'ora. Noi pensiamo al sesso 4 volte al giorno quando abbiamo 20 anni, 3 volte al giorno quando abbiamo 40, dai 60 in poi, una volta su 2 abbiamo mal di testa e così. Quindi, no, potreste mettere un nastrino all'occhiello, che almeno uno lo sa prima. Ok, i maschi hanno il testosterone e cercano di avere il maggior quantitativo di femmine possibile. Le femmine hanno gli estrogestinici e se sono sane di mente tendono a permettere l'accesso al loro corpo solo al maschio dopo che costui ha ucciso il drago. Il maschio deve dimostrarmi che mi vuole, io non la do a chi capita, piuttosto a pagamento, perché lì siamo di nuovo in uno scambio. Ma qua mi sembra che ci sia una scelta piuttosto oculata. Beppe Neri, siamo arrivati quasi alla conclusione, ha spiegato Silvana De Mari in termini chimici, di chimica dei rapporti, com'è il rapporto. Ritengo sia corretto. Vediamo se dobbiamo aggiungere però proprio fare una chiosa, perché sennò scivoliamo nella commedia, non è così? No, a me sembra però che la reciprocità dei ruoli per quanto riguarda i sessi vada posta all'attenzione. Cioè, e se la professoressa ad avere questo ruolo? C'è un bellissimo film del 71 con Annie Girardot che si chiamava Morire d'amore, in cui si parla di una storia vera, una professoressa francese. Un episodio di cronaca che fu messa la quale venne denunciata per aver sedotto l'allievo. Beh, l'allievo finì in manicomio e la professoressa si uccise. Allora, noi che siamo un paese che ci riempiamo la bocca tanto di pari opportunità, invece mi sembra che come parrebbe avvenire, quando si tratta di relazioni fra insegnanti donne e allievi maschi, l'immaginario che emerge è un po' da film di serie B anni 70. Ecco, però invece, proprio da un punto di vista clinico, esiste comunque una situazione a rischio, anche se il ragazzo è tutto contento, ha avuto il grande momento. Nella sostanza, e soprattutto per quanto riguarda la modalità di instaurazione del rapporto, la relazione è assolutamente perturbata per la asimmetria dei ruoli, sia che l'insegnante sia uomo, e una sovrastruttura culturale nostra e nella nostra società, che questo viene visto molto diversamente, ma uno sguardo attento dovrebbe porre le due cose assolutamente. Grazie Beppe Neri, grazie Silvana De Mari, grazie che oggi ci ha seguito per la prima volta in diretta. A domani.